Alleluia. Ok. Buongiorno Chiesa. Mi chiamo Jason. Io sono americano. Io vi amo Chiesa mia. So, some of you know who I am. Quindi qualcuno di voi già sa chi sono? I have the privilege to be married to the most beautiful woman in the world. E ho il privilegio di essere sposato con la donna più bella del mondo. You know her as Marta, I know her as Serena. Voi la conoscete con il nome di Marta, io la conosco con il nome di Serena. And let me tell you something. E lasciate che vi dica una cosa. Many of you know how amazing she is. Molti di voi sanno quanto straordinaria Marta sia. She's even better. Ma vi posso assicurare, è ancora di più. It's true. Ed è vero. So we serve Jesus in Africa. Quindi noi serviamo Gesù in Africa. Before we were married, I served Jesus among Muslims in East Africa. Prima di sposarci, io servivo Gesù tra i musulmani nell'Africa dell'Est. And she served Jesus in North Africa amongst Arabs. Mentre lei serviva Gesù nel Nord Africa tra gli arabi. And if you're new to this church, let me tell you something. E se sei qui per la prima volta o per le prime volte, lascia che ti dica una cosa. We are a church that loves the nations. Noi siamo una chiesa che ama le nazioni. We are a church that loves every person. Noi siamo una chiesa che ama tutti quanti, ogni singola persona. And we are a church that gives and sacrifices. E noi siamo una chiesa che dà e che si sacrifica. So that every person. Così che tutti quanti has the opportunity to hear the good news of Jesus. Possano avere l'opportunità di ascoltare la buona notizia che è Gesù. It is an honor for me. Ed è un onore per me. To be sent by you. Essere mandato da voi. It's an honor for my family to be sent by you. È un onore per la mia famiglia essere mandata da voi. To share the beautiful news of Jesus. Mandata a condividere la meravigliosa notizia che è Gesù, il Vangelo. So thank you for sending us. Quindi grazie per averci mandato. Thank you for sending Julia. Grazie per aver mandato Giulia. And even Emmanuel before. E anche Emanuele prima. And I'm going to prophesy today. E io voglio profetizzare oggi. There's more you're going to be sending. Che ci saranno molti di più che saranno mandati. Amen. So today we're going to look at a parable of Jesus. Quindi oggi andremo a leggere una delle parabole di Gesù. And a parable is basically a story with a purpose. E la parabola non è altro che una storia con un proposito. And this is actually one way that amongst Muslims we share with them. E questo è uno dei modi attraverso il quale condividiamo il Vangelo con i musulmani. We share a story that points to Jesus. Condividiamo una storia che ha l'obiettivo di puntare a Gesù. So here Jesus is teaching and giving us a story. Quindi qui c'è Gesù che sta insegnando attraverso una storia. To teach us about the kingdom of God. E questa storia ha l'obiettivo di insegnarci il regno di Dio. Cos'è il regno di Dio? So you'll find this in Matthew chapter 25. Trovate questa storia in Matteo al capitolo 25. Verse 14 to 30. Dal versetto 14 al 30. And we'll also reference the same story in a different gospel. E abbiamo la presenza di questa storia in diversi Vangeli. In Luke chapter 19, the same story is there. In Luca capitolo 19 la stessa parabola è lì. But Jesus changed some of the details, which will help us as well to learn some things. Ma vediamo che in Luca Gesù cambia qualche dettaglio per aiutarci a capire ancora di più. So let's. Why don't you just read the yeah. Quindi leggiamo da Matteo. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche a quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il Signore gli rispose: «Servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto quello che ha. E quel servo inutile, gettatolo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti». So as we look at this story today, there's a couple of things I want to take note of. Quindi mentre andiamo insomma ad osservare, ad analizzare questa storia, vorrei evidenziare un paio di cose. Many of us read this word talent and we have what the heck is a talent? Molti di noi leggono questa parola talento e si chiedono: ma che cosa sarà mai sto talento? A talent was a lot of money. Bene, un talento corrispondeva a una grande somma di denaro. One talent was worth 20 years of a laborer's wage. Un talento corrispondeva a ben 20 anni di lavoro, di stipendio. So 5 talents is 100 years. Quindi 5 talenti corrispondono a 100 anni. This is an extreme amount of money. E quindi si parla di una somma grandissima di denaro. And in Luke's version it gives us a detail. E nella versione che troviamo in Luca c'è qualche dettaglio in più. That the master is going off to a far off land. Di questo padrone che va in viaggio verso una terra lontana. And he's going to be made king and he's going to return as king of the land. E lui lì in questa terra lontana diventerà il re e poi ritornerà nelle vesti di re. And he gives this money to his servants. E quindi dà questi soldi ai suoi servitori. And it's actually really interesting, he does not give the money to a financial investor or to a bank. Ed è interessante perché lui non dà questo denaro in una banca o a qualcuno che sa come investirli. He gives it to his servants. Ma dà questo denaro ai suoi servitori. This shows us that the master is incredibly generous. E questo ci dimostra che il padrone è estremamente generoso. And he's incredibly trusting. Ma anche che ha una grande fiducia nei suoi servitori. But in Luke's version he adds an extra detail before he leaves. Ma in Luca prima della partenza c'è un dettaglio in più che leggiamo. He tells his servants that he expects them to put the money to work. C'è scritto che il padrone si aspetta che i servitori facciano fruttare il talento a loro dato. So the one that went and dug it and put it in the earth. E quindi il servitore che andò, fece una buca e sotterrò il talento. He was in disobedience to his master. Quello che ha fatto è che ha disubbidito alle parole del suo padrone. Jesus. Gesù. Has given us so much. Ci ha dato così tanto. He has given us gifts and talents and abilities and resources. E ci dà dei regali, dei talenti, delle abilità, delle risorse. But he expects us to put it to work. E lui si aspetta che noi facciamo fruttare tutto questo. And when the master returns, e quando il padrone ritorna, and these servants come and say, look it, we have grown what you've given us. Vediamo i servitori che dicono, guarda, noi abbiamo fatto fruttare quello che tu ci hai dato. What does he say? Che cosa dice? He says, well done. Dice, good molto and bene. Buono e fedele servitore. But. Ma. He does not say. Lui non dice. Well done, good and fruitful servants. Molto bene, buono e proficuo servitore. God cares more about our faithfulness than our fruitfulness. Perché Dio è molto più interessato alla nostra fedeltà più che alla nostra produttività. See, the servants were praised and rewarded. Vedete, questi servitori sono stati lodati e qualcosa gli è stato dato in cambio. Not because they were fruitful, non perché avevano portato frutto, erano stati proficui, but because they were faithful. Ma perché sono stati fedeli. And the other one, he was judged and punished, e l'altro è stato punito e giudicato, not because he was fruitless, non perché non aveva portato frutto, but because he was faithless. Ma perché non era stato fedele. And I do believe if you are faithful, quindi io credo che se noi siamo fedeli, you will be fruitful in some way. Noi in un qualche modo di conseguenza saremo fruttuosi. But sometimes, ma certe volte, our faithfulness leads to someone else's fruitfulness. La nostra fedeltà porta qualcun altro ad essere fruttifero. I believe that fruitfulness always comes from faithfulness. Io credo che essere fruttuosi è sempre una conseguenza dell'essere fedeli. But sometimes it's for the future generations to receive. Ma certe volte il frutto è un qualcosa che le future generazioni ricevono. I think of this where I served in East Africa. E penso a questo quando penso al tempo che ho servito in Africa dell'Est. I personally know an amazing couple who served for 25 years. Io conosco personalmente una coppia così fedele che ha servito per 25 lunghi anni. They lived through war and people trying to kill them. E persone hanno tentato di ucciderli e hanno vissuto la guerra. But they persevered and they shared Jesus and they loved people. Ma loro hanno perseverato, hanno condiviso il Vangelo e hanno amato le persone. And at the end of their career, zero people made decisions to follow Jesus. Ma alla fine del loro servizio, della loro carriera, zero persone hanno accettato Gesù. Were they failures? E sono stati fallimentari? Or were they faithful? O sono stati invece fedeli. I believe that when they get to heaven, they will hear, "Well done, good and faithful servants." Io penso che quando andranno in paradiso, loro ascolteranno molto bene, buono e fedele servitore. And let me tell you, when I moved to Africa. E vi racconto quando mi sono trasferito in Africa. Within a year, we started to see these same people come to Jesus. Nell'arco di un anno abbiamo visto le stesse persone a venire al Vangelo. But honestly, they weren't coming to Jesus because of us. Ma loro non si stavano convertendo grazie a noi. I believe that the faithfulness of the previous generation was beginning to bear fruit. Ma credo che sia stata la fedeltà delle generazioni che ci hanno preceduto che stava incominciando a portare il frutto. God cares more about your faithfulness. Dio è molto più interessato alla tua fedeltà than your fruitfulness. Che a quanto frutto produci. So this opens the question. E quindi questo ci pone davanti una domanda. Faithful about what? Ma dobbiamo essere fedeli a che cosa? Per che cosa? So Jesus, just like the story. E quindi Gesù, proprio come in questa storia. Before he left his disciples. Prima di lasciare i suoi discepoli. He told them that I have all authority in heaven and earth. Ha detto loro, io ho tutta l'autorità in cielo e sulla terra. And because of that authority, I'm now sending you out. E alla luce di questa autorità, io adesso vi mando. To make disciples of every nation. Affinché voi possiate fare discepoli in tutte le nazioni. To baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Che possiate battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. And to teach them everything I've commanded you. E che possiate insegnare loro tutto quello che io vi ho insegnato. So Jesus then goes into heaven. E quindi poi vediamo Gesù che ascende, va in cielo. And he expects his servants e lui si aspetta che i suoi servitori to fulfill this mission. Realizzino questa missione. Essentially, the mission is stand up. E in poche parole, la missione è alzatevi. Go out. Andate fuori. Rise. E sorgete. Shine. E splendete. Share the love of Jesus. Condividete l'amore di Gesù. Go into the darkest places. Andate in quei posti che sono tra i più bui. Shine the light of Jesus. Splendi la luce di Gesù. We do this. E noi lo facciamo. By opening our mouths, come aprendo la nostra bocca, and speaking truth, e parlando parole di verità. Let me tell you, you always have to speak to share the gospel. E lasciate che ve lo dico, noi dobbiamo sempre parlare per condividere il Vangelo. It says in Romans, how can they believe if they have not heard. Lo dice in Romani, come possono credere se non hanno udito? It's not popular, but we have to speak the truth. Non è un qualcosa che si dice sempre, ma questa è la verità, dobbiamo dire, parlare la verità. The only way to be saved is through Jesus. L'unica maniera per essere salvati è attraverso Gesù. Through his sacrifice. Attraverso il suo sacrificio. And the world needs to hear this. E il mondo ha bisogno di ascoltare questo. But we also do this by loving people. Ma facciamo questo anche attraverso il nostro amore verso le persone. By serving the poor. Servendo i poveri. By loving the sick. Amando i malati. By being a hand of comfort. Confortando chi ha bisogno. We shine by loving a world that is broken. Noi risplendiamo come amando un mondo che è nel bisogno. And the third way is we shine by bringing the power of God into this world. Il terzo modo, noi risplendiamo portando la potenza di Dio in questo mondo. The same power that raised Jesus from the dead, la stessa potenza che ha resuscitato Gesù dai morti, is living in us. Vive in noi. And we go out with that power. E quindi noi andiamo con quella potenza. See, Jesus went into heaven. Vedete, Gesù è andato in cielo. And then an amazing thing happened. E poi qualcosa di straordinario è successo. He sent his Holy Spirit to fill us. Lui ha mandato lo Spirito Santo per riempirci. We have all we need to be faithful. Noi abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere fedeli. We have all we need to be successful in this mission. Abbiamo tutto quello di cui necessitiamo per portare frutto, per realizzare questa missione. And more than that, he's given us resources and money and talents and abilities. E ancora di più, lui ci dà risorse, denaro, abilità, tempo. And we need to be faithful with them. E quindi dobbiamo essere fedeli con tutto questo. But how we're faithful might be a little different for each person. Ma l'essere fedele può essere diverso da una persona all'altra. We all have the same mission. Noi abbiamo tutti la stessa missione. To make disciples of all nations. Cioè di fare discepoli in tutte le nazioni. But how we do that may be different. Ma come facciamo questo può essere diverso. I think of it like an army at war. E lo penso come un esercito quando è in guerra. They all want to win the war. That is the goal. Tutti hanno lo stesso obiettivo, vincere la guerra. But their actions may be different. Ma le loro azioni possono essere diverse. So you have the soldier on the front line with the weapon. E quindi abbiamo il soldato al fronte con la sua arma. You have the generals in the room with the map and the strategy. Abbiamo il generale che è nel suo ufficio con tutte le carte delle strategiche. And then you have maybe the person that's cooking the food for the soldiers. E poi puoi avere anche chi magari cucina i pasti per i soldati. All are doing something different. Tutte queste persone stanno facendo qualcosa di diverso. But they're all working for the same goal. Ma stanno tutte lavorando per lo stesso obiettivo. You are all called to missions. E quindi noi siamo tutti chiamati alla missione. How you fulfill that calling is going to be different. Come vivi quella missione può essere diverso l'uno dall'altro. So let me share a few ideas, some points to encourage us in our faithfulness to the mission. E quindi vorrei condividere qualche punto affinché possiamo essere incoraggiati nella nostra fedeltà. So number one. Quindi punto numero uno. Don't waste your opportunity. Be faithful. Non sprecare la tua opportunità, ma sii fedele. We have a limited time on this earth. Perché noi abbiamo un tempo limitato su questa terra. Either Jesus will return, the master will return. Perché sappiamo Gesù il padrone ritornerà. Or you will die, I'm sorry, you o are going to die. Magari moriremo noi prima. Don't waste your life. E quindi non sprecare la tua vita. Don't take what you've been given and bury it under the ground. Non prendere quello che ti è stato dato e metterlo sottoterra. Don't waste your life on things that don't matter in eternity. Non sprecare la tua vita per cose che alla luce dell'eternità non hanno valore. A nice house, nice clothing. Una bellissima casa, dei bellissimi vestiti. These won't matter in eternity. Questo nell'eternità non avrà alcuna importanza. Who wins the football match won't matter in eternity. Chi vince la partita di calcio nell'eternità non avrà alcuna importanza. I know my wife is going to say that to me someday. Sono convinto che mia moglie mi rinfaccerà queste parole prima o poi. When people are dying, they never say. Quando le persone sono in punto di morte, loro non diranno mai. Oh, I wish I had nicer clothes. Oh, quanto avrei voluto avere dei vestiti migliori. Oh, I wish I had watched more movies on Netflix. Quanto avrei voluto vedere più film su Netflix. No, they say I wish I'd been more generous. No, dicono. Avrei tanto voluto essere più generoso. I wish I'd prayed more. Avrei voluto pregare di più. I wish I had forgiven my family. Avrei voluto perdonare la mia famiglia. These are things that matter. Vedete, queste sono le cose che hanno importanza. Let's not waste our opportunity. E quindi non sprechiamo la nostra opportunità. Because if you do, perché se lo facciamo, you'll be like that last man. Saremo come quell'ultimo servitore. And it'll be too late. E sarà troppo tardi. Second point. Secondo punto. Don't play it safe. Be faithful. Sii fedele. Corri il rischio. See, two of the servants doubled their investment. Vedete, i due servitori hanno raddoppiato il loro talento. And I don't know if you know anything about investing money or resources. E non lo so se insomma sai qualcosa riguardo l'investimento monetario. But to double your money? Ma raddoppiare I tuoi soldi? You gotta take some risk. E per farlo devi correre necessariamente qualche rischio. You don't put it in that little account at the bank and it just grows a little bit. Non lo metti, sai, nel tuo conto in banca e così che cresce piano piano. You gotta take some risk if you want to double your investment. Se vuoi raddoppiare il tuo investimento, qualche rischio lo devi correre. God is teaching us here. E quindi Gesù, Dio ci sta insegnando. He wants us to risk. Che vuole che noi corriamo il rischio. And actually in Luke's version it gives us some more details. E nella versione di Luca su questo punto c'è qualche dettaglio in più. It says that after the master left, dice che dopo che il padrone partì, the people in the surrounding community, le persone, insomma, della comunità, delle comunità limitrofe, they sent a delegation to oppose him becoming the king. Mandarono delle delegazioni per ostacolare che questo padrone diventasse re. See, the surrounding community hated this master. Quindi vedete, le comunità limitrofe odiavano questo padrone. And yet the master still said, "Here's my resources." Ma nonostante tutto, il padrone dice, "Ecco, queste sono le mie risorse." And I'm calling you to serve me even and everybody around me opposes. E io vi chiedo, vi chiamo a portare frutto, a servirmi, nonostante tutte le comunità limitrofe mi odiano. He was calling his servants to courageous public faithfulness. Stava chiamando i suoi servitori ad avere una fedeltà pubblica e a pagarne il prezzo, a correre dei rischi. And one of the servants said, "Man, this is too risky." E uno dei tuoi servitori che cosa ha detto? No, no, questo è troppo rischioso. I'm just going to bury this. I don't under the ground. I don't want to deal with these other people. No, no, no, faccio una buca, metto il talento sottoterra e non voglio avere niente a che vedere con quanto sta succedendo. But the other two were courageous. Ma gli altri due sono stati coraggiosi. They were bold. Sono stati forti. See, King Jesus has gone off to a far-off land, to heaven. Vedete, il re Gesù è partito, è andato lontano nel cielo. He's given us this mission. E lui ci ha dato questa missione. But it's not a safe mission. Ma non è una missione senza rischi. You ever hear this phrase? Avete mai sentito questa frase? The safest place to be is in the center of God's will. Il posto più sicuro nel quale essere è al centro della volontà di Dio. And that is true for eternity. E questo è vero alla luce dell'eternità. But it's not true right now. Ma adesso, in questo momento, non è così tanto vero. The center of God's will, il centro della volontà di Dio, it led Jesus to the cross. Ha portato Gesù sulla croce. The center of God's will, il centro della volontà di Dio, led Stephen to be stoned to death. Ha fatto sì che Stefano fosse lapidato fino alla morte. The center of God's will is dangerous. Il centro della volontà di Dio è un posto pericoloso. It's risky. È un posto rischioso. Jesus said something here. Gesù ha detto qualcosa qui. He said, "If you lose your life." Ha detto, se perdete la vostra vita, if you die to yourself, se morite a voi stessi, you will find life. Voi troverete vita. But dying is not safe. Ma morire non è senza rischi. Dying to self is not safe. Morire a noi stessi non è qualcosa di sicuro, facile. May we be a church. Che noi possiamo essere una chiesa that doesn't worship safety, che non adora la cosa sicura, but worships Jesus, ma che adora Gesù. Third point. Terzo punto. And very important in connection with the last. E questo è molto importante e si collega con quello che sarà l'ultimo punto. Don't settle for lesser joys. Non ti accontentare di una gioia minore, più piccola. Be faithful. Ma sii fedele. So when the master rewarded the two for being faithful, quando il padrone ha premiato i due servitori per essere stati fedeli, he gave them more, ha dato loro di più, and then he said, "Enter into my joy." E poi ha detto loro, ecco, entrate nella mia gioia. True joy is found in faithfulness. La vera gioia si trova nell'essere fedeli. True joy is found in surrendering all for Jesus. La vera gioia si trova nell'arrendersi, nell'arrendere tutto a Gesù. True joy is found in generosity. La vera gioia si trova nella generosità. When you give away everything you have for something bigger than yourself. Quando dai tutto quello che hai per qualcosa che è più grande di te stesso. For the mission of God. Per la missione di Dio. You experience deeper joy. Ecco lì, noi possiamo sperimentare una gioia più profonda. Both now. Adesso. And in heaven. E per l'eternità in cielo. And yes, there will be hardship. E certamente, sì, ci saranno delle difficoltà. But when you give it all for Jesus, ma quando tu dai tutto per Gesù, there's a supernatural joy that strengthens you. C'è una gioia sovrannaturale che ti dà la forza. One day before I moved to East Africa, il giorno prima del mio trasferimento in Africa dell'Est, I was feeling overwhelmed. Io mi sentivo sopraffatto. Yeah, I said, God, the people you're calling me to are known for terrorism and violence. Dio, ma le persone alle quali tu mi stai mandando sono conosciute per la loro violenza, per il terrorismo. They have a reputation for being one of the most difficult people to reach with the gospel. La loro reputazione parla di una difficoltà altissima nell'accettare il Vangelo. And the Holy Spirit in that moment spoke to me very clearly. E lo Spirito Santo in quel momento mi ha parlato molto molto chiaramente. He said, "Jason." E mi ha detto, "Jason, I cannot call you to a life without joy." Io non ti posso chiamare a vivere una vita senza gioia. Church. Chiesa. Jesus cannot call you to a life without joy. Gesù non ci può chiamare a vivere una vita senza gioia. And I can prove this biblically. E io posso provare questo con la Bibbia. In Hebrews chapter 12. In Ebrei al capitolo 12. It says, "For the joy set before him." C'è scritto per la gioia che gli stava davanti. Jesus endured the cross. Gesù ha sopportato la croce. If there was joy for Jesus on the cross, se c'è stata la gioia per Gesù sulla croce, there can be joy for you. Allora ci può essere gioia per te. No matter whatever cross you bear. E non a prescindere da quale croce stai sopportando. No matter the suffering you're experiencing now. A prescindere dalle sofferenze che probabilmente stai sperimentando ora. Look ahead as Jesus did. Guarda avanti, guarda quello che Gesù ha fatto. And know. E sappi. That when you hear that "well done, good and faithful servant." Che quando tu ascolterai "molto bene, buono e fedele servitore." It will all be worth it. Capirai che ne sarà valsa la pena. There is joy in faithfulness. C'è gioia nell'essere fedeli. There's a unique and special joy to costly faithfulness. C'è una gioia unica quando si vive una fedeltà che costa. And there is unimaginable joy. E c'è una gioia che non possiamo neanche immaginare. Set before us on the other side of eternity. Proprio che è pronta per noi dall'altra parte dell'eternità. So church, quindi chiesa, let us not settle for the lesser joy. Non ci accontentiamo di avere una gioia più piccola, minore. Let us give it all. Ma diamo tutto. And enter into the joy of our master. E per poter entrare entriamo nella gioia del padrone. Fourth point. Quarto punto. Don't worry about what's outside of your control. Non ti preoccupare di ciò che non puoi controllare. Be faithful. Sii fedele. See, they did not know when their master would return. Vedete, i servitori non sapevano quando il padrone sarebbe tornato. And no matter how much they worried. E non aveva importanza quanto magari si potevano preoccupare. It wasn't going to make their master come back any sooner. La loro preoccupazione non avrebbe fatto tornare il padrone prima. For my wife and myself. Per mia moglie, per me. There's so much that we don't know. C'è così tanto che noi non sappiamo. There's so much that's outside of our control. C'è così tanto che è al di fuori dal nostro controllo. We want to see a church built where there are no believers. Noi vogliamo che nasca una chiesa in un posto dove non ci sono credenti. And there's people that oppose that. E ci sono delle persone che stanno ponendo che si stanno opponendo a questo. But worrying about that will not help us to be faithful. Ma preoccuparci di tutto questo sicuramente non ci aiuterà ad essere fedeli. We need to be faithful with the things we can control. Noi dobbiamo essere fedeli con quello che noi possiamo controllare. And release the things we cannot. E arrendere, lasciare tutto quello che non possiamo controllare. And here's another thing that was outside of their control. E questa è un'altra cosa che è fuori dal nostro controllo. The servants were each given different amounts of money. Cioè questo, i servitori avevano ricevuto una, cioè hanno ricevuto una somma diversa di denaro. I'm gonna be honest, others may have more money than you. E onestamente, cioè altri ci possono essere persone che hanno più soldi di quanti ce ne abbiamo noi. Others may be more intelligent or have more skills or gifts than you have. Ci possono essere persone che sono più intelligenti, più abili, più capaci di noi. But complaining about what they have, ma lamentarsi di quello che loro hanno, will never help you to be faithful with what you have. Non ci aiuterà mai ad essere fedeli con quello che noi abbiamo. We need to get our eyes off of each other. E quindi dobbiamo smettere di guardarci attorno l'un l'altro. And get our eyes onto Jesus. E dobbiamo invece incominciare a guardare, a puntare gli occhi su Gesù. You cannot be faithful. Perché non puoi essere fedele. When you're worried about what others have and you don't. Quando ti preoccupi di quello che gli altri hanno e che a te manca. You have all you need to be faithful. Perché tu hai tutto quello di cui necessiti per essere fedele. It doesn't matter that they have more. E non ha importanza che c'è qualcuno che magari ha di più. Be faithful with the little you have. Ma sii fedele con quel poco che hai. And trust that Jesus sees you. E abbi fiducia nel fatto che Gesù ti vede. And he will honor your faithfulness. E che lui onora la tua fedeltà. Fifth point. Quinto punto. Don't take credit for what God has done. Non prenderti il merito, il vanto di quello che Gesù ha fatto. Be faithful to honor God. Sii fedele nell'onorare Dio. In Luke's version, nella versione di Luca, the servant comes to the master. Il servitore va al padrone. And I love this. E mi piace tanto questo aspetto. He says, "Sir, your money has earned 10 more." E dice: "Padrone, ecco, il tuo denaro si è raddoppiato." He doesn't say, "Oh, look at how hard I worked and look at what I did to make more money." Non dice: "Guarda quanto io ho lavorato, guarda quante cose ho fatto per raddoppiare il denaro." He's basically saying, "This is your money." Quello che lui sta dicendo è: "Questo è il tuo denaro." "It's not mine, take it back." Non è il mio e quindi prenditelo indietro. We are faithful. E quindi noi siamo fedeli. And God brings the fruit. Ed è Dio che porta il frutto. Think of a farmer who has a seed. Allora pensiamo a un contadino che ha un seme. Let's say it's an apple tree seed. Vediamo, è un seme del melo. And he puts it into the ground. E lui lo mette sotto terra, lo pianta. He's faithful to find good soil. E quindi è fedele nel trovare un terreno che sia fertile. He's faithful to make sure it gets water. È fedele nel annaffiare questo terreno. He's faithful to protect it from the other animals that would come. È fedele nel proteggere questa parte del terreno da ogni pericolo, animali. And as the tree grows up and starts to bring apples. E man mano che l'albero cresce e incomincia a portare frutto, le mele. And one day he comes and he takes an apple off the tree. Quindi vede questo albero che cresce e poi un giorno prende una mela dall'albero. The farmer does not say. Il contadino non dice. Look at this apple I created. Non dice, guardate questa mela che io ho creato. No, the farmer was faithful to do his job. No, il contadino è stato fedele nel fare il suo lavoro. And God made it grow. E poi è stato Dio a far crescere. And God brought the fruit. E a portare il frutto. We are called to be faithful. Quindi noi siamo chiamati ad essere fedeli. It's jobs God to bring the fruit. Ed è responsabilità, lavoro di Dio, quello di portare frutto. And I can testify, I have seen Jesus do incredible things. E io posso testimoniare, io ho visto Gesù fare cose incredibili. I've seen Muslims turn away from Islam, get baptized and follow Jesus. Ho visto musulmani abbandonare l'Islam, essere battezzati e vivere per Gesù. I've seen a house church planted in the most unlikely of places. Ho visto una chiesa crescere in un posto che era tra quelli che mai avrei potuto immaginare. And yet, God did this. Ma è stato Dio a fare tutto questo. Every time I've seen God do something incredible. Ogni volta che ho visto Dio fare qualcosa di incredibile. I felt so small. Mi sono sentito così piccolo. And he felt so big. E lui che si è sentito così grande. Yes. I've seen God do amazing things. E certamente sì, ho visto Dio fare cose meravigliose. But he did it. Ma è stato lui a farlo. I was just there to be faithful. Io ero solo lì e sono stato fedele. He bore the fruit. Ma è stato lui a far crescere il frutto. So how is God calling us to be faithful today? Quindi come ci sta chiamando Dio oggi ad essere fedeli? To rise and shine. A sorgere e a splendere. We have a mission. Noi abbiamo una missione. And my plea, my cry, è la mia preghiera, il grido del mio cuore, is that we don't miss our opportunity. È che noi non perdiamo la nostra opportunità. That we don't play it safe. Che noi corriamo dei rischi. That we don't settle for the lesser joy. Che non ci accontentiamo per la gioia, le gioie minori. That we stop worrying about what's outside of our control. Che smettiamo di preoccuparci per quello che non possiamo controllare. And that we don't take credit for what God does. E che non ci prendiamo il merito di quello che invece è Dio che ha fatto. That we're faithful to give him the glory. E che siamo fedeli nel dare a lui la gloria. And I do believe if we are faithful, e io credo che se noi siamo fedeli, we will eventually in some way be fruitful. In un qualche modo noi vedremo il frutto, saremo fruttuosi. See, we need to be faithful in the morning. Vedete, dobbiamo essere fedeli la mattina. Faithful in the afternoon. Fedeli il pomeriggio. Faithful in the evening. Fedeli la sera. Faithful at breakfast. Fedeli a colazione. Faithful at lunch. E poi a pranzo. Faithful at dinner. E fedeli quando ceniamo. Faithful when we're sick. Fedeli quando siamo malati. Faithful when we're healthy. E fedeli quando invece stiamo bene. Faithful when we have questions with no answers. Fedeli quando abbiamo delle domande irrisolte. Faithful when we think we know it all. E fedeli anche quando pensiamo di sapere tutto. Faithful when we're alone. Fedeli quando ci sentiamo soli. Faithful when we're surrounded. Fedeli quando siamo circondati da persone. Faithful when we're poor. Fedeli quando siamo poveri. Faithful when we're rich. Fedeli quando siamo ricchi. Faithful in the winter. Fedeli in inverno. Faithful in the summer. Fedeli in estate. Faithful. Fedeli. Faithful. Fedeli. Faithful. Fedeli. Faithful. Faithful. Faithful. Fedeli. Faithful. Fedeli. Faithful. Fedeli. And then one day. E poi un giorno. When you least expect it. Quando meno te lo aspetti. And you're just going about like normal. E tu stai vivendo la tua vita così, normalmente. Faithful, faithful, faithful. Continua ad essere fedele, fedele, fedele. You'll take a step. Fai un passo. And you'll stumble into fruitful. E ti ritrovi nel frutto. May we be a church that's faithful. Che noi possiamo essere una chiesa fedele. May we hear the words. Che noi possiamo ascoltare quelle parole. Well done. Bravo. Good and faithful servants. Buono e fedele servitore. Pieno Vangelo. Pieno Vangelo. May we be those good and faithful servants. Che noi possiamo essere quei buoni e fedeli servitori. Let's pray. Preghiamo. Oh, Lord Jesus, we need you. Signore Gesù, noi abbiamo bisogno di te. We are so weak. Noi siamo così deboli. Send your Holy Spirit. Manda il tuo Spirito Santo. Help us to be faithful. E aiutaci ad essere fedeli. Help us to be faithful with the task you've given us. Aiutaci ad essere fedeli con il compito che tu ci hai affidato. And Lord, I pray right now for our church. E io ti prego, Gesù, in questo momento per la Chiesa. That you would speak to people, Jesus. Che tu possa parlare alle persone questa mattina. That you would prophetically speak to them. Che tu possa parlare profeticamente. Show them how to be faithful. Che possa mostrar loro come essere fedeli. For those who are struggling now, help them in their struggle. Per chi si trova in difficoltà, soccorri. Get their eyes on the joy set before them. Che i loro occhi possano essere fissati sulla gioia posta davanti a loro. Help them to be faithful in their perseverance. Aiuta loro ad essere fedeli nel perseverare. And I pray that this would be a church. E io prego che questa possa essere una chiesa. That bears fruit. Che raccoglie, che porta frutto. For Jesus. Per Gesù. In Modugno, a Modugno, in Bari, a Bari, in Puglia, in Puglia, in Italy, in Italia, into the ends of the earth, fino all'estremità della terra. And I speak this blessing today in Jesus' name. E io prego questa benedizione oggi nel nome di Gesù. Amen. Amen.